Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Catherine andò lungo il lago nel piccolo albergo a trovare la Ferguson e io rimasi nel bar a leggere il giornale. Nel bar c'erano poltrone di cuoio molto comode e rimasi seduto a leggere finché non entrò il barman. L'esercito non si era fermato al tagliamento, stava ritirandosi verso il Piave. Ricordavo il Piave. La ferrovia lo attraversava vicino a San Donà, salendo al fronte. Era profondo e lento in quel punto e molto stretto. Laggiù c'erano le paludi di zanzare e i canali. C'era qualche bella villa. Una volta, prima della guerra, andando a Cortina d'Ampezzo, l'avevo seguito per parecchie ore fra le colline. Lassù pareva un torrente da trote che scorresse veloce con tratti di acqua bassa e pozze sotto l'ombra delle rocce. La strada se ne allontanava a cadore. Mi chiesi come avrebbe fatto scendere l'esercito che era lassù. Entrò il barman. «È venuto a cercarla il conte Greffi», disse. «Chi?» «Il conte Greffi. Ricorda quel vecchio che era qui l'altra volta?» «È qui?» «Sì, è qui con la nipote. Gli ho detto che lei è qui, vuole giocare a biliardo con lei». Trovai il conte Greffi nella sala da biliardo. Stava esercitandosi e aveva un'aria molto fragile sotto la luce che cadeva sul tavolo del biliardo. Su un tavolino da gioco, poco discosto dalla luce, c'era un secchiello d'argento col collo e il turacciolo di due bottiglie di champagne che si affacciavano nel ghiaccio. Il conte Greffi si alzò quando mi avvicinai al tavolo e mi venne incontro, tese la mano. «Sono così lieto che lei sia qui. È stato molto gentile a scendere per giocare con me. È stato molto gentile da parte sua a invitarmi. Come sta? Mi hanno detto che è stato ferito sul Lisonzo. Spero che stia di nuovo bene. Sto benissimo. E lei? È stato sempre bene?» «Io sto sempre bene, ma invecchio. Ormai scopro i segni dell'età. Non posso crederlo, sì. Vuol saperne una. Mi riesce più facile parlare italiano. Mi domino, ma quando sono stanco mi accorgo che è molto più facile parlare italiano. Così so che invecchio. Possiamo parlare italiano? Anch'io sono un po' stanco. Oh, ma quando è stanco deve riuscirle più facile parlare inglese, americano. Sì, americano. Parli americano, per favore. È una lingua magnifica. Non vedo quasi mai americani. Deve sentirne la mancanza. Si sente sempre la mancanza dei connazionali, specialmente delle connazionali. Lo so per esperienza. Vogliamo giocare? O è troppo stanco? Non sono stanco, sul serio. L'ho detto per scherzo. Che handicap mi dà? Ha giocato molto in questo periodo, neanche una volta. Lei gioca molto bene. 10 punti ai 100. Vuole adularmi. 15. Andrebbe bene, ma lei vincerà. Vogliamo giocare per una posta? Ha sempre desiderato giocare per una posta. Credo che sia meglio. Bene. Le do 18 punti e giochiamo una lira al punto. Giocammo una bella partita di biliardo e con tutto il mio handicap ai 50 vincevo solo di 4 punti. Il conte Greffi spinse un bottone nel muro per far venire il barman. «Apri una bottiglia, per favore», disse. Poi a me, «prendiamo un piccolo stimolante». Il vino era gelato e molto secco e buono. «Vogliamo parlare italiano. Le dispiacerebbe molto. È la mia grande debolezza, ora». Continuammo a giocare sorseggiando il vino tra un colpo e l'altro, parlando italiano, ma poco, concentrati nel gioco. Il conte Greffi fece il suo 100° punto e con l'handicap rimase a 94. Sorrise e mi diede un colpetto sulla spalla. «Ora, beviamo l'altra bottiglia e lei mi parla della guerra». Aspettò che mi sedessi. «Di qualcos'altro», dissi. «Non vuole parlarne? Bene. Che cosa ha letto?» «Niente», dissi. «Temo di essere molto noioso». «No, ma dovrebbe leggere». «Che cosa hanno scritto durante la guerra?» «C'è Le Feu di un francese, poi c'è Mr. Breitling Sees Through It». «No, non è vero». «Cosa?» Non riesce a vedere niente. Quei libri erano all'ospedale. Allora ha letto qualcosa? Sì, ma niente di buono. Mi pareva che Mr. Breitling fosse uno studio molto buono sull'anima della borghesia inglese. Non mi intendo di anima. Povero figliolo, nessuno di noi si intende di anima. Lei è croyant? Quando è buio. Il conte Greffi sorrise e girò il bicchiere fra le dita. Mi aspettavo di diventare più devoto invecchiando, ma non lo sono diventato, disse. È un gran peccato. Le piacerebbe vivere dopo la morte? Chiesi. E immediatamente mi sentii uno scemo per avere nominato la morte, ma non fece caso alla parola. Dipenderebbe dalla vita. Questa vita è molto divertente. Mi piacerebbe vivere per sempre. Sorrise. Ci sono quasi riuscito. Eravamo affondati nelle grandi poltrone di cuoio con lo champagne nel secchiello del ghiaccio e i bicchieri sulla tavola fra noi. Se lei vivrà fino a essere vecchio come me, si accorgerà di molte cose strane. Non ha mai avuto l'aria di essere vecchio. È il corpo che è vecchio. A volte ho paura di spezzarmi un dito come si spezza un bastoncino di gesso. E lo spirito non invecchia e non diventa più saggio. Lei è saggio? No, è il grande inganno, la saggezza dei vecchi. Non diventano saggi, diventano attenti. Forse la saggezza è una saggezza poco attraente. Qual è la cosa che lei apprezza di più? Qualcuno che amo. Per me è lo stesso. Questa non è la saggezza. Lei apprezza la vita? Sì, anch'io. Perché è la sola cosa che ho, oltre i ricevimenti per il mio compleanno. Rise. Probabilmente lei è più saggio di me. Lei non fa ricevimenti per il suo compleanno. Stavamo tutti e due bevendo il vino. Che cosa pensa della guerra? Sinceramente, chiesi. Penso che è stupida. Chi vincerà? L'Italia. Perché? È la nazione più giovane. Le nazioni giovani vincono sempre le guerre? Per un certo periodo sono adatte per vincerle. E poi? Cosa succede? Diventano nazioni più vecchie. Ha detto che non è saggio. Caro figliolo, questa non è saggezza. Questo è cinismo. A me pare molto saggio. Non lo è in modo particolare. Potrei citare gli esempi contrari, ma non è così male. Abbiamo finito lo champagne? Quasi. Vogliamo berne ancora un po'? Poi devo vestirmi. Forse è meglio no, per ora. È sicuro che non ne vuole più? Sì. Si alzò. Spero che avrà molta fortuna e molta felicità e molta, molta salute. Grazie. E io spero che lei vivrà per sempre. Grazie. Ho vissuto per sempre. E se un giorno diventate devoto, preghi per me se sono morto. Sto chiedendo a molti amici di farlo. Mi aspettavo di diventare devoto io stesso, ma non è successo. Mi pare che sorridesse con tristezza, ma non ero certo. Era così vecchio e aveva la faccia molto rugosa. Un sorriso smuoveva tante linee da prendere ogni gradazione. Può darsi che diventi molto devoto, dissi. Comunque pregherò per lei. Mi sono sempre aspettato di diventare devoto. Tutta la mia famiglia è morta molto devota. Ma chissà come non è successo. È troppo presto. Forse è troppo tardi. Forse sono sopravvissuto al mio sentimento religioso. Il mio viene soltanto al buio. Ma poi lei è innamorato, non dimentichi che è un sentimento religioso. Crede? Certo. Fece un passo verso la tavola. È stato molto gentile a giocare. Mi ha fatto molto piacere. Saliamo insieme. Quella notte vi fu un temporale e mi svegliai per udire la pioggia che sferzava i vetri della finestra. Stava entrando dalla finestra aperta. Qualcuno aveva bussato alla porta. Andai alla porta senza fare rumore per non disturbare Catherine e aprii. Era il barman. Aveva il cappotto e teneva in mano il cappello bagnato. Posso parlarle, tenente? Cos'è successo? È una cosa molto seria. Mi guardai attorno. La stanza era buia. Vidi l'acqua sul pavimento, sotto la finestra. Vieni, dissi. Lo presi per un braccio e lo condussi nel bagno. Chiusi la porta e accesi la luce, sedetti sull'orlo della vasca. Cos'è successo, Emilio? Sei nei guai? No. C'è lei, tenente. Sì? L'arresteranno domattina. Sì? Sono venuto a dirglielo. Ero fuori in città e li ho sentiti parlare in un caffè. Capisco. Era lì in piedi col cappotto bagnato, il cappello bagnato in mano e non diceva niente. Perché mi arrestano? Per qualcosa che riguarda la guerra. Sai per che cosa? No. Ma so che sanno che l'altra volta è venuto qui vestito da ufficiale e ora è qui senza uniforme. Dopo questa ritirata arrestano tutti. Pensai un momento. A che ora vengono ad arrestarmi? Domattina. Non so a che ora. Che cosa mi consigli di fare? Mise il cappello nel lavabo. Era molto bagnato e aveva continuato a sgocciolare sul pavimento. Se non ha niente da temere, un arresto non è niente. Ma è sempre spiacevole venire arrestato, specialmente adesso. Non voglio venire arrestato. Allora vado in Svizzera. In che modo? Con la mia barca. C'è il temporale, dissi. Il temporale è finito. Sarà dura, ma lei se la caverà. Quando si dovrebbe andare? Subito. Potrebbero venire ad arrestarla presto. Domattina. E le valigie? Le prepari. Faccia vestire la signora. Le porterò io. Dove ti troverò? Aspetto qui. Non voglio che mi vedano fuori nell'atrio. Aprii la porta. La chiusi e andai in camera da letto. Catherine era sveglia. Cosa c'è, caro? Va tutto bene, Kate, dissi. Ti piacerebbe vestirti subito e venire in barca fino in Svizzera? A te? Piacerebbe? No, dissi. Mi piacerebbe ritornare a letto. Che cosa è successo? Il barman dice che verranno ad arrestarmi domattina. È matto? No. Allora sbrighiamoci, caro, e vestiamoci per poter ripartire. Sedette sull'orlo del letto, era ancora assonnata. È nel bagno? Sì. Allora non mi laverò, per favore non guardarmi, caro, e in un minuto sarò vestita. Vidi la schiena bianca mentre si levava la camicia da notte e poi mi voltai perché così voleva. Incominciava a essere un po' grossa e non voleva che la vedessi. Mi vestii ascoltando la pioggia sulle finestre. Non avevo molto da mettere nella valigia. C'è un mucchio di posto nella mia valigia, Kate, se ne hai bisogno. Ho quasi finito, disse. Caro, sono terribilmente stupida, ma perché il barman è rimasto nel bagno? Psst, aspetta, per portarci giù le valigie. Ah, com'è gentile. È un vecchio amico, dissi. Una volta gli ho mandato del tabacco da pipa. Guardai dalla finestra aperta la notte buia. Non riuscivo a vedere il lago, soltanto il buio e la pioggia, ma il vento si era calmato. Sono pronta, caro, disse Catherine. Bene. Andai alla porta del bagno. Ecco le valigie, Emilio, dissi. Il barman prese le due valigie. Siete molto gentile ad aiutarci, disse Catherine. Non è niente, signora, disse il barman. Sono lieto di aiutarvi, purché non mi metta nei guai io. Stia a sentire, mi disse. Porterò queste valigie giù dalla scala di servizio fino alla barca. Lei esca come se andasse a fare una passeggiata. È una bella notte per una passeggiata, disse Catherine. È proprio una brutta nottata. Sono contenta di avere l'ombrello, disse Catherine. Scendemmo il corridoio e le grandi scale dal tappeto fitto. Ai piedi delle scale, accanto alla porta, il portiere era seduto al suo tavolo. Parve sorpreso nel vederci. Escono, signori? Disse. Sì, dissi. Andiamo a vedere la burrasca sul lago. Non ha un ombrello, signore? No, dissi. Ho un vestito impermeabile. Lo guardò poco convinto. Prenda un ombrello, signore, disse. Se ne andò e ritornò con un grosso ombrello. È un po' grande, signore, disse. Gli diede un biglietto da 10 lire. «Oh, è troppo buono, signore. Grazie tante», disse. Tenne la porta aperta e uscimmo nella pioggia. Sorrise a Catherine e lei gli ricambiò il sorriso. «Non rimangano fuori nel temporale», disse. «Si bagneranno, signori». Era soltanto il secondo portiere e il suo inglese era ancora tradotto letteralmente. «Torniamo presto», dissi. Scendemmo il sentiero sotto l'ombrello gigante e uscimmo dai giardini bagnati e bui nella strada e attraversammo la strada fino al sentiero coperto dal pergolato lungo il lago. Il vento ora soffiava verso il lago. Era un vento freddo e umido di novembre e sapevo che sulle montagne stava nevicando. Passammo lungo le barche incatenate agli imbarcaderi lungo la banchina dove avrebbe dovuto essere la barca del barman. L'acqua era cupa contro la pietra. Il barman si affacciò alla fila degli alberi. «Le valigie sono nella barca», disse. «Voglio pagarti la barca», dissi. «Quanto denaro ha?» «Non molto. Mi mandi il denaro più tardi. Così va bene. Quanto?» «Quello che vuole. Dimmi quanto. Se tutto va bene, mi mandi 500 franchi. Non gliene importerà niente se tutto va bene». «Bene». Mi tese un pacchetto. Tutto quello che c'era nel bar. «È tutto qui. Questa è una bottiglia di cognac e questa è una bottiglia di vino», la misi nella valigia. «Lascia che ti paghi questa roba». «Va bene, mi dia 50 lire». Gliele diedi. «Il cognac è buono», disse. «Non abbia paura di darlo alla signora. È meglio che salga in barca». Tenne la barca che si alzava e cadeva contro il muro di pietra e aiutai Catherine a entrare. Sedette a poppa e si strinse nella mantella. «Sa dove andare?» «Nel lago». «Sa fin dove?» «Dopo Luino». «Dopo Luino, Cannero, Cannobio, Tranzano. Non sarà in Svizzera finché non sarà arrivato a Brissago. Deve passare il monte Tamara». «Che ora è?» chiese Catherine. «Sono solo le 11», dissi. «Se non smette mai di remare dovrebbe arrivare alle 7 del mattino». «È così lontano? 35 chilometri. E come faccio per la direzione? Con questa pioggia ci vorrebbe una bussola». «No, vada all'Isola Bella. Poi dall'altra parte dell'Isola Madre vada col vento. Il vento la porterà a Pallanza, vedrà le luci, poi segue la riva. Può darsi che il vento cambi». «No», disse. «Questo vento durerà 3 giorni. Viene diritto giù dal Mottarone. Lì c'è una latta per vuotare l'acqua. Lascia che ti paghi subito qualche cosa per la barca». «No, preferisco rischiare. Se tutto va bene, mi pagherà più che può». «Va bene. Non credo che annegherete». «Meno male. Risalga il lago col vento». «Bene». Salì in barca. «Ha lasciato il denaro per l'albergo?» «Sì, in una busta in camera». «Bene. In bocca al lupo, tenente». «In bocca al lupo. Ti ringrazio molto. Non mi ringrazierà se finirà annegato». «Che cosa dice?» chiese Catherine. «Dice in bocca al lupo». «In bocca al lupo», disse Catherine. «Grazie tante. Siete pronti?» «Sì». Si curvò e ci diede una spinta. Immersi i remi nell'acqua, poi lo salutai con la mano. Il barman mi ricambiò il gesto. Vidi le luci dell'albergo e remai, remando diritto finché scomparve. Le onde erano grosse, ma andavamo col vento. Remavo nel buio tenendomi il vento in faccia. La pioggia era finita e veniva soltanto di quando in quando a raffiche. Era molto buio e il vento era freddo. Vedevo Catherine a poppa, ma non riuscivo a vedere l'acqua nel punto in cui le pale dei remi si tuffavano. I remi erano lunghi e non c'erano gironi di cuoio a impedire che scivolassero. Spingevo, mi rizzavo, mi piegavo in avanti, trovavo l'acqua, affondavo le pale e spingevo, remando più disinvolto che potevo. Non filavo i remi perché il vento era con noi. Sapevo che mi sarebbero venute le vesciche alle mani e volevo evitarlo più che potevo. La barca era leggera e si poteva remare facilmente. Continuai a spingere nell'acqua buia. Non vedevo niente e speravo che presto saremmo arrivati di fronte a Pallanza. Non vedemmo mai Pallanza. Il vento soffiava sul lago e oltrepassammo il punto che nasconde Pallanza nel buio e non vedemmo mai le luci. Quando finalmente vedemmo qualche luce molto più in su, nel lago e vicino a riva, era Intra, ma per molto tempo non vedemmo luci e neanche vedemmo la riva. ma rimai ostinatamente nel buio, seguendo le onde. A volte nel buio spingevo i remi a vuoto mentre un'onda sollevava la barca. Era molto duro, ma continuai a remare finché, d'improvviso, fummo vicinissimi a riva contro una punta di roccia che si alzava accanto a noi. Le onde vi battevano contro, salivano a coprirla e poi precipitavano indietro. Spinsi forte il remo destro e respinsi l'acqua con l'altro, ritornando nel lago. La punta era scomparsa e stavamo risalendo il lago. «Abbiamo attraversato il lago», disse a Catherine. «Non dovevamo vedere Pallanza. L'abbiamo passata. Come stai, caro?» «Bene. Potrei prendere un momento i remi?» «No, sto bene. Povera Ferguson», disse Catherine. «Domattina verrà in albergo e le diranno che siamo partiti.» «Non sono tanto preoccupato di questo», disse. «Quanto di arrivare alla parte svizzera del lago prima dell'alba, in modo che le guardie doganiere non ci vedano.» «È ancora lontano?» «Una trentina di chilometri.»